Succede che la stagione delle trimestrali non sta andando come si sperava perché la crescita è fiacca. È questo il punto centrale che riguarda il travaso sulla politica. Una crescita fiacca. Mancano 2 settimane alle elezioni americane. Barack Obama in questo momento si trova a rincorrere Mitt Romney. Se dovessero esserci altri risultati negativi in borsa, se si dovessero accumulare nuove perdite da qui alle prossime 2 settimane, se il 2 novembre, quando ci sarà il dato sulla disoccupazione in America per il mese di ottobre, bene, quel dato dovesse essere negativo, e possiamo anche sospettare che lo sia, visto che soltanto la DuPont ha licenziato 1500 persone nell'ultimo trimestre. Ecco, se questi sviluppi dovessero proseguire sull'onda negativa, per Obama si aggiunge un problema ulteriore, devo dire un problema forse più preoccupante del previsto. Forse anche per questo Mitt Romney, vi dicevo, sornione, è apparso più pacato l'altro giorno. Forse sapeva, conoscendo il mondo degli affari, businessman, che le cose non andavano esattamente per il meglio.